9B. Ascolta e trasforma. Lo studente non è potuto entrare a teatro perché lo spettacolo era già cominciato. Gli studenti non sono potuti entrare a teatro perché lo spettacolo era già cominciato. Quando è arrivata alla stazione, il treno era già partito. Quando sono arrivate alla stazione, il treno era già partito. Quando ha acceso il televisore, la partita di calcio era già finita. Quando hanno acceso il televisore, la partita di calcio era già finita. Ha speso tutti i soldi che aveva guadagnato facendo il cameriere. Hanno speso tutti i soldi che avevano guadagnato facendo i camerieri. Il professore ha ripetuto l'esempio che uno studente non aveva capito. I professori hanno ripetuto l'esempio che degli studenti non avevano capito. Ha comprato il libro che aveva visto in vetrina. Hanno comprato il libro che avevano visto in vetrina.